Vendo tutto di Matteo Caccia. La mia chitarra la suona la figlia di Guglielmo. Con il mio computer Luca ci sta già lavorando. Mentre con la mia stilografica Emanuele sta scrivendo il diario della sua nuova vita. Queste sono solo alcune delle persone che hanno comprato le mie cose. E molte altre ne verranno, perché io vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo la mia collezione di Topolino. Sono le 16 e quasi 10 minuti, buongiorno a tutti. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e oggi si parla di collezioni. Allora, domenica sono andato a casa a pranzo dai miei, perché lì tengo i miei 630 topolini, perché nella mia casa di Milano proprio non c'entravano. Ora, a parte che non potete immaginare mia madre quanto sia felice che le cavo dalla mensola, grazie Laura, che le cavo dalla mensola queste file di appunto 600, mi ricordo se sono esattamente 630 o 670, comunque più di 600 topolini che pesano tra l'altro 120 kg, quindi chi si vuole comprare questi topolini sappia che pesano 120 kg, quindi deve avere o una mensa o una libreria che sopporti questo peso. Ho scoperto però che non ero l'unico che collezionava cose in casa, perché poi di fatto tutti, secondo me, prima o poi, cioè c'è il collezionista professionista, quello che va alle fiere, va incontra gli altri, partecipa ai forum su internet, però poi di fatto un po' tutti abbiamo collezionato della roba nella nostra vita. Tipo mia sorella collezionava, presente le spillette, quelle rotonde piccole che tipo nei concerti o compravi nei negozietti in giro quando andavi a fare le gite. Mio padre colleziona bustine di zucchero, ne ha tipo scatoloni presi da alberghi e bar di tutta Italia. E poi avevo un amico, adesso non so se lo fa ancora lui, a parte che non lo vedo da una vita, collezionava le marmitte dei Ciao. Avete presente le marmitte dei Ciao, il vecchio Ciao? 800240024, perché mi piacerebbe avere il solito conforto da voi, il fatto di non essere l'unico imbecille che collezionava qualcosa. Ho collezionato 630 topolini, l'ho fatto per praticamente quasi 18 anni della mia vita, dal 1982 al 1994. Ho smesso quando più o meno sono diventato maggiorenne, non che questa cosa mi abbia aiutato. Ma non è di questo che voglio parlare. 349-238-6666 per scrivermele, oppure 800240024 perché se collezionate qualcosa anche e soprattutto di particolarmente assurdo, mi piacerebbe che me lo raccontaste. 800240024. Veniamo ai miei topolini. Li volete vedere? Non è che siano particolari da vedere, però le foto ci sono. Radio24.it, la loro storia inizia ora. La collezione di Topolino. Collezione di 631 numeri di Topolino della Walt Disney a partire dal 1 agosto 1982 fino al 1 novembre 1994. Tutti ordinati e numerati appena sulla copertina e sul bordo, secondo il numero sequenziale della collezione. Contengono una media di 6 storie a numero, più rubriche e approfondimenti per ragazzi. Perfetti per i nostalgici dell'infanzia o per chi l'infanzia la sta vivendo e vuole dimenticarla. Base d'asta Vendo Tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Avete presente Trainspotting? Trainspotting è il titolo di un film bello e anche un po' triste, però è soprattutto una pratica per ragazzini svogliati. Significa letteralmente mettersi di fianco a una ferrovia e guardare i treni che passano. E fin qui non ci sarebbe in effetti niente di così strano. Però chi fa Trainspotting non si limita a questo. Lui prende nota meticolosamente di tutti gli orari dei passaggi dei convogli e quanti vagoni porta e di che tipo. E lo fa tutti i giorni, per un sacco di tempo, riempiendo quaderni e dando un senso alla propria giornata. Ecco, ci fu un tempo in cui anch'io feci la stessa cosa, però con i topolini, quelli di Walt Disney intendo. Secondo me non era un grave sintomo di alienazione, però era qualcosa di cui non potevo fare a meno e che mi metteva serenità. Una specie di mantra settimanale, no? Una rassicurazione che mi dava un senso di infinito. Un po' come sapere che ogni giorno, alle 7, su Rai 1, ci sarebbe stato Happy Days. Ogni volta che compravo un topolino nuovo, e ciò avveniva tutti i mercoledì, dovevo prenderne nota sul mio quaderno blu, sempre con un colore di pennarello diverso. E questo l'ho fatto ininterrottamente dall'estate dell'82, appena dopo i mondiali, fino all'estate del 94, l'anno della mia maturità. In pratica dai 7 ai 19 anni. Ecco, quel quaderno non ve lo posso vendere, ma le 600 copie di Topolino che formano la mia famosissima collezione, quelle ve lo posso vendere tutte in blocco. Non è stato facile metterle insieme, ci è voluta costanza, però alla fine è stato anche bello. Il giorno d'uscita del giornalaio, cioè il mercoledì, è stato per anni il più bello della settimana e ancora oggi conserva un certo fascino nella mia testa. Il Topolino arrivava in edicola a mezza mattina, per cui lo compravo al ritorno da scuola. Ricordo che dovevo allungare la strada verso casa per andarci e ricordo ancora benissimo l'acquolina in bocca che mi veniva, perché non vedevo l'ora di leggere le storie, di fare i giochi, insomma, di avere il premio che mi aspettava per una settimana di attesa. Tanto che una volta tornato a casa non mi mettevo nemmeno a tavola. Mi buttavo sul letto e mi divoravo i disegni e leggevo i fumetti, manco fossero la mappa di un tesoro. Quelle erano due ore di puro piacere. Un piacere che mi lasciava inebetito per tutto il pomeriggio. Poi però che verso sera si trasformava in una specie di tristezza, perché lì realizzavo che avrei dovuto aspettare un'intera settimana per averne un'altra dose. Quel senso di attesa diventava sopportabile solo il martedì sera, come in una specie di vigilia di Natale. Un giorno però mi sono accorto che ogni topolino contiene 6 storie, cioè 2 grandi, no? Una all'inizio e una alla fine, e 4 più piccole all'interno, tipo Concipe Ciope e Nonna Papera. Centellinare le 6 storie. Quello divenne il mio compito. Potevo leggerne una al giorno e avere la settimana piena, lasciando libero senza problemi il martedì. Tanto era la mia vigilia di Natale. Era un genio. E il mio topolino spalmato su 6 giorni era diventato gigantesco. Certo, era un investimento, eh? Si trattava di poche lire, però per me significavano una parte importante della mia paghetta. Il problema è che non mi piaceva accontentarmi della lettura. No, io dovevo assolutamente comprarlo. Quel topolino doveva essere mio. Avete presente la differenza tra prendere un libro in biblioteca e averne uno nuovo tutto vostro? Ecco, io fin da piccolo ho sviluppato quel pericoloso attaccamento agli oggetti. Quello lì, quello che solo ora sto curando. Al tempo non c'era nessun modo di farmi desistere. Potevo arrivare anche al furto per averlo. E lo feci, lo ammetto. Io rubai per possedere il topolino numero 1714. Non avevo più soldi perché li avevo dovuti spendere per le figurine. E quindi semplicemente presi il topolino dal banco dell'edicola, mentre la signora Flora, cioè l'edicolante, era girata e non guardava. E lo portai via senza pagare. Quindi, allora, signora Flora, io mi scuso ufficialmente qui davanti a tutti. Spero che non mi abbia serbato rancore. Però il destino è beffardo, perché fu esattamente su quella copia di Topolino che la magia si spense. Mi spiego. Iniziai a leggerlo. Arrivato alla storia del lunedì, scoprii con orrore che quella storia io l'avevo già letta. Me ne ricordavo benissimo. L'avevo letta su un topolino di 2 anni prima. Potevo recitarla a memoria quasi. E mi fu facile andare a ripescarla. Era identica. Stavo male. Io mi aggiravo per la cameretta infuriato come una belva e alla fine decidi di fare come faceva mio nonno quando doveva pagare il canone della Rai. Presi carta e penna e scrissi una lettera. Una lettera a Walt Disney, perché è lui che scrive le storie, no? Voglio dire, c'è la sua firma dappertutto, quindi deve essere lui. Per caso il signor Disney credeva che non ci ricordassimo di lui? Noi lettori non siamo mica degli imbecilli e pensavo che quando gli sarebbero arrivate milioni di lettere se ne sarebbe accorto. Non è che avessi uno scopo preciso in quella lettera, però scriverla mi fece stare meglio. Caro Walt Disney, mi chiamo Matteo e faccio la quinta elementare e spero che tu sappia l'italiano. Secondo me però lo sai, perché scrivi le storie di Zio Paperone, che è il mio preferito. Devo dirti una cosa che mi ha fatto molto arrabbiare. Io compro sempre tutti i topolini che ci sono dal giornalaio, ma questa settimana c'era una storia che io avevo già letto. Era la storia che leggo il lunedì, che tra l'altro è il mio giorno più brutto. Quindi mi hai rovinato il lunedì. Tu, Walt Disney, mi hai fregato. Io sono stato triste tutto il giorno e non sapevo nemmeno con chi arrabbiarmi. E allora mi sono arrabbiato con mia sorella, che però non se lo meritava. Poi mia mamma mi ha detto che potevo scriverti. E quindi ti scrivo per dirti che mi hai fatto pagare 2 volte la stessa storia. Ah, questa cosa ha fatto arrabbiare anche mio cugino. Lui non ha il coraggio di scriverti, però l'altro giorno mi ha detto che tu lo hai fregato e che forse non si vestirà più da Pippo a Carnevale. Che effettivamente è un peccato, perché lui assomiglia molto a Pippo. E la sua fidanzata Lucia adesso come fa ad andare in giro vestita da Clarabella tutta da sola? Spero che tu ti senti male e mi rispondi, perché io sono molto arrabbiato. Ciao, Matteo. Quella fu la prima volta che presi una posizione personale nella mia vita. E fui felice, perché alla fine la Walt Disney Italia, per scusarsi, mi inviò un abbonamento annuale gratuito a Topolino, compresi tutti gli album speciali. Fu allora che capii che nella vita è sempre meglio prendere una posizione invece che far finta di niente. Eppure, nonostante tutto, nonostante le felicità, i tuffi nei dobloni d'oro, l'odore della carta, le storie scritte due volte, questi 600 e passa topolini sono in vendita. Il loro valore sul mercato non lo conosco, ma la base d'asta qui parte a 99 centesimi. Per raccontarmi le vostre collezioni, 800240024. Yeah, well I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Che mondo magnifico che sarebbe. Sono le 16:21, 349-238-6666. Martina da Milano, ho collezionato fino ad ora 4824 rane sotto ogni forma e materiale. Mio suocero colleziona quelle orrende palle di vetro che nevicano. Cioè, non è che nevicano le palle di vetro, credo che nevichi dentro le palle di vetro. Il problema è che ogni volta che vado in giro, e giro molto, gliene devo portare a casa una, Andrea. Io colleziono banconote da tutto il mondo, ne ho più di 7000 di 174 paesi diversi. Ciao Sergio, tassista di Milano. Grande Sergio, ci segue sempre. Come vedete, chiaramente il collezionismo è chiaramente una patologia, ma lo voglio sentire dalla voce viva degli ascoltatori. 800240024. Andiamo con Massimo da Roma. Pronto? Buon pomeriggio. Ciao Massimo. Sì. Buon pomeriggio. Ciao. Come stai? Complimenti per la trasmissione, perché è un classico dirlo. Ma solo perché è un classico lo dici oppure... Mi serve più che altro per vincere l'emozione. Bravissimo. Con la radio. Complimenti anche allora, a te comunque Massimo. Dimmi la tua collezione. Grazie. Ma è molto particolare, è una collezione che a Roma definirei sola e che tra l'altro l'ironia della sorte è che mia moglie lo sta apprendendo probabilmente ascoltando la radio in questo momento. Vai. Ho la casa che sta per essere invasa da 70 automobiline di metallo. Perché è la collezione praticamente sono le riproduzioni delle automobiline disegnate nella serie di Tintin, il fumetto classico di Hergé, quello belga. Cioè, ah, Tintin, certo, ho capito ora, scusami, perdonami. E sono 70 automobiline di latta, di metallo. Sì, non di latta, sono di metallo, dipinte a mano. Sono quelle collezioni dove inizi perché sei affascinato magari dalla pubblicità, te ne fai mandare una che arriva in omaggio, la certo. Seconda... Massimo, ma scusami, però non capisco cos'è che non sapeva tua moglie ancora. Non sapeva che sono 70 le macchine, Quindi probabilmente se la piega in due. Quindi intervenendo e andando a corollario della tua osservazione circa il peso della collezione, a volte bisognerebbe anche capire gli ingombri delle collezioni. Guarda, ma io direi anche gli ingombri psicologici delle collezioni alla fine, Massimo. Però tu hai già cominciato a fare outing e questo mi sembra un buon punto di partenza. Io ti ringrazio. Assolutamente. Ciao Massimo, bene. Grazie mille. Grazie a voi, grazie. Ciao, buona giornata. Andiamo ad Alessandria, da Bruna. Pronto? Pronto. Buongiorno Bruna. Buongiorno signor Caccia, io sono appassionatissima della sua sua trasmissione. Signora Bruna. Volevo dirle che mio figlio ha 48 anni, mio marito ha mangiato per degli anni 200 formaggini. Guardi, io amo già lei e suo marito. Allora, la chiedo però di darmi del tuo e di chiamarmi per nome, altrimenti mi imbarazzo, Bruna, perché potrei essere quasi suo figlio, diciamo. E quindi... Comunque, per raccogliere le figurine di Walt Disney, i librettini delle fiabe, se le ricorda? Guardi, un po' mi sfuggono, perché forse non sono sufficientemente... Non perché sono nato in tempo. Giovane. Ma sì, ho questi 34 anni, insomma, appunto, diciamo... Appunto, mio figlio ne ha 48. Quando era piccolino, mio marito ha mangiato 200 scatole di formaggini mio. Ma in quanto tempo, Bruna? In quanto tempo? Ma in 2 o 3 anni, non oltre, perché li comprava quando era piccolino, il bambino, e quindi poi dopo però io le ho tenute fino all'anno scorso. E poi che fine hanno fatto? Li ho vendute su eBay. Ah, signora, ma Bruna, lei ha detto 74 anni, peraltro li porta benissimo e usa serenamente eBay. No, è mio figlio che lo usa, io non sono proprio capace. Senta, ma lei sa dirmi quanto si tira fuori vendendo su eBay, quindi una collezione come quella? Ma adesso io non ricordo, non se lo ricordo. Però un una cifra notevole. Insomma, ma sono rimasti a lei, a suo figlio o a suo marito i soldi? A mio figlio. A suo figlio, certo, perché la collezione era sua. E poi aveva tante altre cose che io ho sempre tenuto, fino ad ora, fino all'anno Bruna, scorso. Io starei qui ad ascoltarla per ore, però purtroppo la devo salutare che ci sono altri ascoltatori. Certamente. Però io sono qua tutti i giorni alle 4, spero anche lei. Sì, guardi, le dirò altre cose. Va bene, grazie saluto, Bruna, buona giornata, grazie ancora. Niente, non riusciva a darmi del tu la Bruna. Pronto, Flavio da Milano. Ciao Matteo, complimenti per la trasmissione. Grazie mille, grazie mille. Flavio, tu cosa che collezioni? Io colleziono un po' qui, un po' nel mio paese di origine, l'Argentina, tutti i caschi, dal primo casco che ho usato fino a quello che ho usato a fare il mio primo giro in Patagonia in moto fino all'ultimo casco che ho qua. Ma quindi quanti ne hai? Sono 13 in totale, tra un po' qua e un po' là. Ma sono tutti omologati, quindi li puoi usare tutti oppure? Sono tutti omologati, tutti consumati, usati, alcuni con cadute, altri sicuramente avevano ancora un po' di terra alla Patagonia, alcuni qualche un po' di terra in ma qualche quindi, scusami, ma con scusami, la mia Africa Twin. Ma quindi le collezioni non sono quelle robe che tu devi semplicemente metterle sotto la plastica? Cioè, vale usare gli oggetti? Le collezioni vanno usate, okay. Usate e consumate, se no... Perfetto, grazie mille Flavio, buona giornata, prego, a presto. Ciao, non abbiamo più tempo, peccato. Bonini mi fa segno tipo che mi tagli la testa se prendo altre telefonate. Quindi io ringrazio tutti quelli che hanno chiamato. Leggo l'ultimo. Scusa Matteo se te lo dico, ma ascoltando ti comincio a capire perché la tua ragazza ti ha lasciato. Non te la prendere, io ti ascolto comunque. Luca, grazie Luca. Sono le 16:26 minuti, io ringrazio lui, ma ringrazio soprattutto la Laura Faggini, il Tiziano Bonini, l'Alessandro Genovesi, lo Stefano D'Andrea e il Paolino Corleoni. La mia collezione è online, radio24.it. Domani invece cambio come al solito oggetto, vendo un indumento tecnico domani, è una muta in neoprene, la si può usare per andare in barca oppure per fare le immersioni. Qualsiasi cosa collezionate invece, voi che state ascoltando, provate a pensare che forse è arrivato il momento di smettere, perché una collezione è solo un insieme di oggetti uguali. Love, love, love.